America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, oggi elezioni importanti. In Israele 6 milioni di elettori andranno alle urne per confermare o bocciare il governo Netanyahu, o comunque Benjamin Netanyahu come primo ministro israeliano. Ecco, non abbiamo la possibilità ovviamente di parlare oggi di questioni politiche, perché aspetteremo i risultati. Però, leggendo un giornale americano proprio ieri, Los Angeles Times, ho visto un articolo di Michael Douglas, il grande attore Michael Douglas, che aveva a che fare con l'ebraismo. Lui parlava del suo viaggio a Gerusalemme e del fatto che aveva alcune riflessioni da condividere con i suoi lettori. Quali erano? Beh, erano legate a un fenomeno che riguarda gli ebrei in genere, e cioè quello dell'antisemitismo. Raccontava che suo figlio, durante un viaggio in Europa, in Sud Europa, non spiegava esattamente dove, era stato, come dire, insultato con degli epiteti perché aveva una stella di Davide, e lui ha scritto quest'articolo in cui dice: beh, forse è stato un bene per mio figlio, perché si rende conto di cosa vuol dire l'antisemitismo. In America è meno presente, in Europa lo è molto di più. Io spero che questo antisemitismo che si vede in Europa, in giro per il mondo, non arrivi negli Stati Uniti d'America. Ecco, c'è una percezione di differenza tra quello che succede in America e quello che succede in Europa. Ecco, ho con me i microfoni America 24, credo l'interlocutore ideale per parlare di queste cose, cioè Rav Riccardo Disegni, che è il rabbino capo di Roma. Buongiorno Rav Disegni. Buongiorno. Ecco, beh, allora lei intanto qui negli Stati Uniti, come mai? Cos'è che l'ha portata qua in America? Sono stato invitato dalla sinagoga Park East, che sta celebrando i 125 anni della sua fondazione, e noi abbiamo un lungo rapporto di collaborazione, quasi gemellaggio, tra la sinagoga di Roma e questa sinagoga. Che è la sinagoga di Ravi Schneider, grande leader nella comunità ebraica americana. Sì, è un uomo che ha in più di 52 anni di attività come rabbino in questa sinagoga è riuscito a creare una incredibile rete di amicizia e di collaborazione con rappresentanti politici e religiosi di tutto il mondo. Ecco, questa notizia del figlio di Michael Douglas che è stato oggetto di attacchi antisemiti mi ha colpito un pochino, perché abbiamo la sensazione che in America sia meno diffuso l'antisemitismo. Ecco, come vede intanto questa differenza fra Europa e Stati Uniti? Ma intanto l'antisemitismo è un mostro, chiamiamolo così, da molteplici facce, che vanno dal pregiudizio spicciolo a una frase buttata là offensiva, a atteggiamenti molto più aggressivi e discriminatori, fino alle persecuzioni, gli attentati e così via. Quindi c'è un'intera fascia di fenomeni possibili che sono latenti nella società, e che un torrente sotterraneo sempre vitale che emerge in vario modo secondo le circostanze. Certo, i modi con cui sta emergendo in Europa in questi ultimi tempi chiaramente sono stati al centro dell'attenzione dei media per tutto quello che sappiamo. C'è un altro episodio che è capitato anche questo pochi giorni fa, che ha fatto il giro di tutti i media americani, perché una ragazza di religione ebraica che voleva diventare membro del consiglio giuridico degli studenti dell'Università di California a Los Angeles è stata oggetto di un interrogatorio da parte degli altri compagni, in particolare di una ragazza che dice: ma noi che garanzie abbiamo che tu come ebrea riesci a separare le tue, diciamo, convinzioni religiose dal fatto di esprimere un giudizio obiettivo su certi temi che possono essere portati alla tua attenzione? La ragazza diceva: io non farei mai una cosa che mi impedisce di poter fare questa distinzione. Ci fu prima un voto negativo, dopodiché si accorsero che si trattava di discriminazione razziale a tutti gli effetti, perché è ovvio che ciascuno appartiene a una comunità o a un'altra, e quindi poi fu confermata. Ma di nuovo c'è stato questo aspetto, diciamo così, sgradevole, che a cui non siamo abituati in America. Ecco, lei venendo in questo viaggio in America sente che c'è meno questa sensazione, o come l'ha vissuto in questo viaggio? Ne avete parlato con Schneier? In realtà il racconto che lei fa è un po' stupefacente rispetto a un paese in cui le differenze sono tante, le persone le portano con orgoglio e quindi servono ad arricchire. Però questo ci porta a una questione più di fondo, cioè c'è una differenza fra l'ebraismo e il modo in cui è vissuto in Europa per un retaggio storico che ha esposto gli ebrei europei a persecuzioni e a difficoltà, e l'ebraismo americano, che in fondo è stato più indenne, perché nasce appunto, come le diceva, in un paese multiculturale, molto aperto, che protegge i diritti di tutti, insomma. Allora, le differenze sono di vario tipo. La prima differenza è sull'entità numerica. Noi in Europa, in definitiva, anche nelle grandi comunità, abbiamo a fare con dei numeri che sono incomparabili con i numeri dell'ebraismo americano. Paese delle libertà, ma ho avuto un colloquio con dei medici che raccontavano che quando loro studiano medicina mica potevano studiarlo in tutte le università americane, cioè ci stanno delle università che non ammettevano degli ebrei, la terra della libertà non ammetteva gli ebrei. Nelle università europee, italiane, questo blocco si è risolto molto prima che negli Stati Uniti. In compenso l'Europa ha massacrato i suoi ebrei. E arriviamo al contesto generale, perché dopo l'attacco a Charlie Hebdo a Parigi, proprio per questa percezione che ci sia un pericolo maggiore per gli ebrei in Europa, abbiamo visto Netanyahu che ha detto: ma insomma, venite in Israele, francesi, venite in Israele. Ecco, questo problema, secondo lei, c'è anche in Italia? Come lo vede, dovendo fare un confronto tra Italia e Francia? Intanto Netanyahu sta facendo il suo mestiere di leader di un paese che nasce con il sionismo, che quindi il sionismo vuole portare gli ebrei in Israele, quindi sta facendo semplicemente il suo lavoro. Il suo lavoro. Sì. C'è, da quello che percepisco, una differenza ancora importante tra la situazione di, chiamiamola, tra virgolette, di disagio nella quale vivono gli ebrei francesi rispetto alla situazione degli ebrei italiani, in cui noi monitoriamo ogni evento possibile di ostilità antiebraica, ma non stiamo ai livelli di percezione degli ebrei francesi. Questo lo posso documentare da colloqui continui, racconti e così via. Quindi siamo in due situazioni differenti. Non è detto che domani mattina, facendo i dovuti scongiuri, le cose non cambiano pure in Italia, ma abbiamo una situazione. Quindi lei sente che c'è una situazione di maggiore sicurezza e di maggiore rispetto, diciamo, in Italia, sì, rispetto ad altri paesi? Sì, questo sì, perché la situazione è socialmente differente e anche il ruolo che ha l'immigrazione, che potrebbe essere quel tipo di immigrazione che potrebbe essere ostile, è un ruolo molto più contenuto di quanto possa esserlo in altri paesi. E dal punto di vista della sicurezza, dunque, c'è da parte del Ministero degli Interni un forte... Una grande attenzione che in questi ultimi tempi si è ulteriormente accentuata. Ecco, uno dei temi centrali che amo seguire è quello del multiculturalismo. Lo vediamo per esempio la situazione Ucraina, Russia, ci sono mille situazioni diverse. Ecco, c'è stato un reaching out, diciamo un tentativo di dialogo, per esempio da parte sua, da parte delle comunità ebraiche con le comunità islamiche italiane, con le moschee? Avete avuto un rapporto? Ma io personalmente anni fa ho fatto una visita alla grande moschea di Roma, cercando di instaurare un rapporto diretto, positivo. È un lavoro che, devo dire, incontra delle difficoltà. E perché non c'è stata risposta, oppure è stato difficile organizzarlo? Il mondo islamico è molto variegato, probabilmente c'è qualcuno che si oppone e qualcun altro che è disponibile. Chi si oppone è più forte di chi è disponibile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vede più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ancora con me i microfoni America 24, Rav Disegni, la scelga lei la canzone del giorno. Blowing the Wind è un po' datata, ma in qualche modo ha dei temi che colpiscono. Il vento che soffia. Molto attuali, sì, non soffiamo contro il vento, insomma, la speranza di arrivare, beh, diciamolo, al multiculturalismo c'è sempre. Bob Dylan, Blowing in the Wind. Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!